Papà, sistemi una volta, due volte, tre volte, ma mica puoi sistemare tutti i giorni, perché la vedono che la sistemano e tanto dicono c'è i coglioni che la sistemano, ci facciamo i cazzi nostri noi, no? Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Tiro Dani Alves sulla deviazione e la Juve in vantaggio, beffato Posavec, deviazione netta, colpo di tacco quello di Goldaniga che beffa il suo portiere Posavec. Palla perfetta per Azzi, 100 Azzi, 2-0 Napoli. Non ha scelto qualcosa di banale per il suo 100° con la maglia azzurra. Dopo 50-60 metri dalla frenata ho capito che non mi sarei fermato e quindi sarebbe stata una roba brutta prenderlo pieno e cascare tutti e due. Quindi ho pensato che era meglio di no, e anche se avrebbe avuto comunque il suo fascino. Apertura per Belotti, posizione regolare, sta arrivando anche Iago Falche, a cui lascia il pallone Belotti, sinistro deviato! La doppietta di Iago Falche, Toro 3, Roma 1, Iago Falche con deviazione. Andreva sul secondo palo, Perisic! È un gol straordinario, quello di Ivan Perisic, al 37° l'Inter fa 1-1 con un gioiello del croato. Meno male che c'è Ilari Blasi. Meno male che c'è Ilari Blasi con la sua intervista alla Gazzetta che ci ha cambiato la vita in questo lunedì in cui il campionato ci regala il verdetto che tutti aspettavamo, e cioè che Juventus e Napoli sono più forti delle altre. Poi io continuo a pensare che la Juventus sia più forte del Napoli e quindi ben presto si vedrà anche questa differenza. Però insomma, Juve e Napoli sono più forti delle altre, sono già in fuga, questo dice la classifica, che da 4 punti di vantaggio della Juventus sull'Inter, 5 su Roma, Lazio, Milan, Chievo, Bologna, insomma, rapporti di forza che sono già delineati. Poi questa mattina uno va in edicola, compra il giornale e legge Ilari Blasi che dà del piccolo uomo a Spalletti, piccolo uomo che subisce Francesco Totti, e allora improvvisamente lunedì cambia colore. 800 24 00 24, vi aspetto in diretta fino alle 15.30, oppure 349 238 6666 se volete mandare i vostri sms e i vostri whatsapp. Oggi è diventata, carissimo Pierluigi Pardo, ciao Pier, ciao, il lunedì, la giornata è diventata la giornata delle grandi domande. Con chi state? State con Ilari Blasi o con Spalletti? Ma è anche state con De Boer o con Kondogbia? State con Sarri o con De Laurentiis? State con quelli che pensano che Allegri sia un sopravvalutato o con quelli che pensano che vincere giocando male e con un po' di fortuna sia anche un'arte? Da dove vuoi partire? Io sto con Chiara Zucchelli e Cecchini che hanno fatto l'intervista. So che può sembrare una roba fuori tema, però mi giungono da Roma, soprattutto sui social, tutta una serie di segnali che, insomma, in questa follia, indubbiamente l'intervista di oggi è un'intervista che crea problemi alla Roma, non c'è discussione su questo, quindi nessuno ne ridimensiona il contenuto. Però quello che magari da altre parti d'Italia meno coinvolte può sembrare logico, a Roma invece va detto con più forza, cioè che un giornalista che fa un'intervista di questo tipo a Ilari per i 40 anni di Francesco Totti e che si imbatte in una risposta di questo tipo fa un colpo giornalistico, che non vuol dire che gli aumenterà lo stipendio, ma vuol dire che ha fatto bene il suo lavoro. Siccome invece mi dicono che insomma, sì, social, che no, si parla di gossip, che si parla no, di, ma è, cioè, ho di, letto di delle pubblicità robe per trasmissioni televisive, di, ma questo può essere tante, questo può anche che essere che Ilari possa aver deciso che magari l'intervista è meglio mandarla lunedì visto che lunedì c'è la trasmissione. Questo fa parte delle normali logiche che vengono fatte da chiunque abbia un qualcosa da promuovere. Anzi, ricordo che stasera alle 23.40 c'è Tiki-Taka su Italia 1. Proprio per l'abbiamo fatta tutta la prima serata, seconda serata e siamo posto. Esatto. Però a parte questo, io credo veramente che questo sia il primo tema. Mi rendo conto che è una roba, tra parentesi, ma va detta, perché siccome invece appunto basta andare sul web perché mi sembra colpa della Zucchelli e di Cecchini, che invece sì, hanno fatto un colpo giornalistico. Invece è colpa di Ilari Blasi, secondo me è colpa di Ilari Blasi. Insomma, secondo me Ilari non ha fatto un regalo di compleanno a Francesco Totti, detto fra noi. Poi mi riesce difficile pensare che Totti non sapesse nulla, francamente. Anche se lei dice all'inizio, questa è farina del mio sacco, però... A essere maligni. No, aspetta, tra l'altro c'è un paradosso. Ti faccio sentire Spalletti sabato, alla vigilia di Torino-Roma, parlare della festa di compleanno di Francesco Totti, che compie 40 anni domani. Sì, mi ha invitato. Penso di andare a salutarlo per la sua festa, perché è una festa importante. Poi non voglio rovinare il resto della festa, per cui vado a salutarlo, gli faccio gli auguri e poi vado via. Perché quando mi vedranno entrare sarò sicuramente non gradito dal resto del gruppo, per cui vado lì, lo saluto e vengo via. Adesso vediamo se ci va, Pier, a salutarlo. Spalletti fa sempre un po', no? Sì. Non fa mai 0-0 da questo punto di vista, nel senso che poteva chiuderla lì, ci vado e basta. No, Si è voluto mettere il carico da 90 come ha fatto ieri. Tanto poi ne parliamo delle parole di Spalletti. Oggi il Corriere dello Sport lo critica apertamente con un editoriale del suo direttore Alessandro Vocalelli, dicendo che è ora di fare un po' meno il filosofo e lo psicologo e parlare di calcio, perché la Roma gioca male e ha perso la seconda partita in una settimana. Aspetta, prima del traffico io voglio buttarne lì un'altra. State con Dogbia sostituito dopo 28 minuti o con De Boer che l'ha lapidato pubblicamente? Per me un giocatore può fare errore, per me no problema, però quando abbiamo parlato molta volta di questo, e se no ascolta deve sentire, e per me è anche un segnale per la squadra, sì, però... perché non posso accettare questa cosa, specialmente quando abbiamo parlato questa mattina di cosa. Tu con chi stai, Pier? Con De Boer. Con De Boer. Con De Boer. Sì, credo che De Boer stia facendo una piccola rivoluzione e infatti all'inizio faticava molto. E faticava molto perché comunque dietro a qualsiasi cambiamento un po' drastico di mentalità, di metodi, di regole si può sempre nascondere una certa resistenza al cambiamento, legittima, assolutamente normale. Ci vuole tempo per imporre cambiamenti, il cambiamento non è mai una cosa semplice, però il cambiamento, che non è che per forza sia qualcosa di positivo, ma che certe volte può essere qualcosa di positivo, può portare a dei risultati, e mi sembra che in questi Inter si cominci a vedere qualcosa, anche se poi ieri il risultato non è stato all'altezza delle speranze, delle aspettative nelle azzurre. De Boer mi sembra molto, molto dritto, molto diretto, molto... Siamo poco abituati, lo hanno detto in tanti, alle diplomazie, eccetera. Poi io credo che alla fine De Boer con Dogbia, Brozovic dovrà anche recuperarli, perché l'Inter, ma nessuno si potrebbe permettere di metterli fuori dal progetto alla fine del mese di settembre. Però noi registriamo e giriamo anche la domanda agli amici da casa, 800 24 00 24, per prenotarvi in diretta. Prima del traffico ti leggo, Piero, un messaggio. Andrea da Pordenone: ciao, se un arbitro volontariamente non dà un rigore nettissimo al Milan, forse è tutto scritto, perché c'è anche questo nel lunedì in cui vi chiamiamo qui tutti convocati. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Qui altro che ciupiti di Bobovier. JP Morgan Asset Management vi presenta Tutti convocati. Allora, c'è chi dice: quando un allenatore dichiara che non è gradito dal gruppo anche a una festa di compleanno, mi fa pensare che non sa far bene il suo lavoro. In tanti oggi criticano Spalletti, al di là della battuta sulle menti malate della Roma, Pier, ma proprio per il modo in cui gioca e i risultati che sta facendo la Roma. Anche se si è un po' incartata, i miei segnali però sono che questa intervista di Ilari invece ha avuto un effetto negativo, diciamo, ammesso che ci sia una dialettica fra, penso che sia abbastanza chiaro, fra Totti e Spalletti. Sembrava superata questa fase, ma evidentemente non è così, nel senso che Spalletti ieri sera sembrava sul banco degli imputati, oggi dovrà quasi essere una vittima di fronte a questa intervista, non perché poi non ci possa essere un fondo di verità in quello che dice Ilari. Io anche penso che ci siano stati dei momenti, l'ho detto mille volte, che Spalletti abbia esagerato nei confronti del capitano della Roma, quella famosa conferenza stampa con tutti i dettagli sui test aerobici, sui due gol di Roma-Lazio, cioè, alcune volte io l'ho detto pubblicamente, ho trovato un po' esagerato, quasi ossessionato dal tema Totti Spalletti, però in assoluto, a parte che mi sembrava una fase superata, nel senso che adesso Totti, un po' anche perché gli altri faticano, sta giocando con una certa regolarità, quindi mi sembra che da questo punto di vista i rapporti numeri alla mano stessero migliorando. E poi francamente far uscire una roba del genere nel giorno in cui la Roma perde a Torino, tra l'altro insomma la Roma perde a Torino alle ore 14:30, quindi anche da un punto di vista c'è un po' di, c'era tutto il tempo per decidere che forse non era il caso, invece, quindi il fatto che questa intervista sia stata fatta perché credo che comunque alla fine dietro un'intervista del genere c'è necessariamente un ok di Ilari che dice va bene mandatela oggi oppure mandatela domani, credo, poi magari mi sbaglio, però aspetta che lo chiediamo anche a Giancarlo Dotto, che intanto saluto, così allarghiamo la platea. Giancarlo, buon pomeriggio. Eccomi, salve, ciao ciao, buongiorno. Stai con Ilari o con Spalletti? Se necessario stare con uno dei due sicuramente con Spalletti. Stavo ascoltando Pardo, concordo, la signora Blasi ha fatto la BP fuori dal vasino, ma ampiamente proprio, insomma, a buttare benzina in fuoco così di questi tempi, quindi una cosa assolutamente intempestiva, gratuita, ingenerosa, e frutto evidentemente di un momento di onnipotenza che spesso i televisivi, escluso il Pardo presente, spesso i televisivi hanno purtroppo, insomma, quindi veramente una brutta cosa che non ci voleva, e che tutto riapre quell'inferno che a Roma. Ecco, io l'unica cosa che non condivido con Pardo è quando parla dello Spalletti ossessionato da Totti. In realtà è la città che è ossessionata da Totti, insomma, è ossessionata da Totti al punto che è diventata una malattia, insomma. Io su questo poi non mi pronuncio più, perché il fatto di essere equivocati non è più un rischio, ma è una certezza. Sì, però, sì. Insomma, se poi anche la moglie ci si mette con questa intervista, è finita, non c'è più margine. Credo che sia un tema molto, molto delicato, perché da un lato, ovviamente, chiunque ha diritto a parlare, e il punto di vista della compagna di Francesco Totti è un punto di vista interessantissimo, legittimo, ed è legittimo che lei abbia detto quello che pensa. Quindi qui non stiamo parlando semplicemente di, tra virgolette, opportunità, e di quella parola con la S maiuscola che si chiama spogliatoio. Però direi anche oltre che opportunità, direi anche responsabilità, perché insomma sei un personaggio pubblico e sai quanto questo tema brucia in una città che brucia permanentemente, se vuoi anche di cazzate, però brucia. Quindi c'è il problema della responsabilità di essere un personaggio pubblico, quindi è giusto dire che chiunque deve parlare, ma è anche giusto dire che ci vuole responsabilità quando parli, altrimenti, cioè, non è che dare un'intervista al genere sia come fare non so la televisione della leggerezza, come fa lei di solito, è un'altra cosa, soprattutto quando parli di un tema così sensibile, insomma, come a Roma. Poi io ritengo che non abbia fatto un grandissimo favore a Francesco Totti, quindi al marito. Io sono uno di quelli che a maggio riteneva ingiusto che Totti fosse costretto a chiudere con la Roma, visto che poteva dare ancora qualcosa. Oggi devo dire che se in un momento così esce una cosa di questo genere e la Roma è prigioniera del suo capitano, del suo simbolo, mi viene quasi in mente che forse aveva ragione Pallotta. Io veramente ti sono grato di quello che dici, perché intanto mi piacciono molto le persone che vanno poi a elaborare il loro pensiero anche modificandolo, ma il vero tema, io ho sempre cercato di sostenere, ma appunto ho rinunciato a farlo, ma con voi lo faccio volentieri, è questo, cioè quanto dà Totti e quanto toglie a questa città. Allora sicuramente il giocatore è immenso e questo lo sappiamo tutti, diventa stucchevole dirlo, insomma, ma quanto toglie proprio in termini di dipendenza, in termini di idolatria, così. Io sento delle cose, voi forse avete magari la fortuna di non sentirla, insomma, ma vivendo qui a Roma spesso ho fatto delle cose veramente allucinanti, per cui sembra che con Totti possa esistere la Roma e senza Totti possa non esistere. Se a tutto questo, diciamo, c'è un clan qui a Roma di Pottiani, che praticamente è la maggioranza della città. Se a questo si aggiunge un'intervista come quella di oggi, evidentemente il clima diventa. Io mi chiedo, la mia vera domanda è come ha reagito Totti alla vigilia anche del suo importante e imponente compleanno, so che la città ormai è tutta mobilitata su questo, a leggere questa intervista, che certamente non gli ha fatto un favore, come dicevi giustamente tu prima, e poi come reagirà uno sanguigno come Spalletti, a cui dare del piccolo uomo. Credo che piccolo uomo per chiunque di noi sia l'insulto più sanguinoso che si possa dare a una persona. Lei l'ha fatto con l'ingenuità della ragazza, eternamente ragazza, anche se mi risulta ormai insomma non più tanto ragazza, l'ha fatto con la leggerezza con cui fa la sua televisione, però si è resa conto, appunto, è stata abbastanza irresponsabile. Sì, leggerezza credo sia la parola chiave. Approfitto di Giancarlo Dotto e anche di Pierluigi Pardo e anche di voi a casa, 800 24 00 24, perché abbiamo detto questa è la giornata delle grandi domande, e una che ci trasciniamo ad esempio da ieri è se vincere giocando male con un po' di fortuna è un'arte, come oggi scrivono in tanti, scrive anche Crosetti su Repubblica, o se invece per Allegri è un peccato, perché Allegri, per tanti tifosi della Juventus, ma stanno scrivendo anche adesso, è sopravvalutato, è un mediocre, è qualcuno che sfrutta il lavoro di altri. Io non so che opinione hai tu, Giancarlo. Scusami, hai detto che Allegri ha detto vulgarmente che è un peccato vincere giocando male. No, no, Allegri no, lo pensano tanti tifosi della Juve, mentre altri infatti pensano sia un'arte da coltivare. Mi sorprendeva. No, io penso che sia invece un peccato, nel senso che vincere è una cosa abbastanza insopportabile, soprattutto se lo fai a lungo, se lo fai con una continuità asfissiante, diventa insopportabile, appunto, che diventa l'equivalente di una sconfitta, nel senso che una vittoria reiterata e diventa anche impossibile di godimento, di piacere. Quindi per me sarà che una leggera simpatia per una squadra che non vince mai, però per me insomma il teorema che vince è l'unica cosa che conta è pessimo, soprattutto poi se vinci male. La Juve vista Palermo è la peggiore Juve degli ultimi 5 anni, ha vinto lo stesso, ma non troverei nulla di esaltante in questo. Però non ha rischiato, ragazzi, così tanto. Io penso che ci siano le vittorie spettacolari, e chiaramente la vittoria di Palermo della Juve è una vittoria molto lontana dall'essere spettacolare. Anche la vittoria del Napoli contro il Chievo non è che sia una vittoria sicuramente migliore, ma non è che sia una vittoria. Napoli una mezz'ora di calcio importante, fatto il Napoli. Sì e no, nel senso che poi in realtà, per esempio, sull'1-0 aveva anche concesso delle cose al Chievo. Insomma, il Napoli meglio sicuramente della Juve, ma tutte e due hanno vinto senza fare, secondo me, il 100% di quello che possono fare, e questo secondo me è un ottimo segno. Poi in generale ha ragione Dotto, chiaramente alla lunga se non hai gioco non vinci, però io credo che il caso della Juve sia diverso. Credo che la Juve sia invece una squadra che in questo momento non è, a parte che ha i tre impegni, insomma, ovviamente Zagabria, aveva anche Zagabria in testa, insomma, non ha in questo momento probabilmente il suo massimo del potenziale, ma intanto va avanti, vince in testa la classifica, ha una solidità e una compattezza che rimane, secondo me, la migliore. Un organico straordinario, per cui organico non straordinario. Cioè, francamente ci sono partite un po' come il Napoli a Kiev, no? Che qualcuno aveva, ricordo che ne avevamo parlato, qualcuno non era entusiasta, ma insomma sono partite, sì, però, dove però ti segnano pezzi di stagione. Questo, sai, è un dibattito che dovremmo portare avanti per ore, insomma, poi c'è una componente soggettiva che diventa irriducibile al dibattito. Per me il calcio è intrattenimento e passione, no, certo. Vincere è una cosa abbastanza marginale, se succede lo fai, ma tu sai benissimo, Pardo, e chiunque di voi sa benissimo, che tutto ciò che noi ricordiamo, tutto ciò che viene trascritto in letteratura, passione, cioè, è la sconfitta, eventualmente, questo si sa. Però vincere è divertente, ma non la cosa, cioè vincere in quel modo a Palermo non è stato sicuramente una cosa divertente. Detto questo, la Juve vincerà quasi tutto quest'anno, anche quest'anno, perché ha un organico straordinario, indovina tutto nel mercato puntualmente. Forse quest'anno, non so se hai indovinato l'acquisto di Pjanic, che da noi, insomma, sappiamo, a Roma è un giocatore abbastanza intermittente, che però quando fa delle cose straordinarie su quelle traccia una memoria permanente. Per il resto indovina tutto, è una squadra che ha un organico spettacolare e quindi fare molto bene ovunque. Sì, forse Allegri sta solo piegandoci qualche settimana, ma del resto è successo anche l'anno scorso ad assemblare tutto. Grazie Giancarlo. Grazie a voi. Grazie, ciao, Giancarlo, ciao. Dotto, comunque, comunque il dibattito è aperto, Pier. A me non sembra, dalla partita della Juve contro il Palermo, però magari mi sbaglio, di vedere chissà quale campanello d'allarme per il futuro. No, anche secondo me c'è un messaggio, cioè, c'è un amico che ha scritto via WhatsApp 349-238-6666: essere sopravvalutato non è Allegri ma il centrocampo della Juve, e forse questo è il dibattito che ci trascineremo valutando questa Juventus per qualche mese, almeno fino al mercato di gennaio. Poi c'è poco da fare, i tifosi della Juve e Allegri lo sopportano poco, c'è chi ricorda che è l'unico ad aver perso un campionato con Ibrahimovic, c'è chi dice che è un allenatore assolutamente sopravvalutato e che fa giocare male la sua squadra. Abbiamo tempo comunque, c'è già Alessandro che ha chiamato 800 24 00 24. Lo facciamo prima la borsa, sì. Alessandro. Sì, buongiorno. Eccoci. Sì, io volevo intervenire per il caso appunto tra Condobbia e De Boer. Sì. Diciamo che finalmente qualcuno esce un po' da quella che è la mentalità nostra di non dire le cose e poi magari creare delle chiacchiere dietro a una situazione che comunque... Io parlo da simpatizzante di tifoso nerazzurro. Non credo che abbia usato dei toni, anzi ha usato dei toni assolutamente pagati, forse perché non conosce bene l'italiano. E comunque alla fin fine credo che un allenatore, siccome viene sempre quando non arrivano i risultati è sempre imputato per quello che succede, possa essere anche una forma di autodifesa, e sicuramente è una differenza di mentalità che c'è tra un allenatore come De Boer e probabilmente la maggior parte degli allenatori che abbiamo noi, perché non credo che il concetto sia secondo Biandava non sostituito. Su questo forse non giocare, ma difatti credo che su questo non ci sia dubbio, Alessandro, cioè Gnucuria ha fatto meglio di Condobbia, che ha fatto 28 minuti disastrosi, punto, quindi la sostituzione dal punto di vista tecnico ci sta. Quello secondo me su cui bisogna ragionare, e lo facciamo anche dopo la borsa, è su questo metodo che usa De Boer per lanciare messaggi da sergente di ferro. Quindi Erkin nemmeno fatto allenare, rimandato in Turchia, Brozovic fuori rosa, Condogbia esposto pubblicamente ai fischi di uno stadio. È un sistema, c'è da capire se è il sistema giusto. 800 24 00 24, la borsa, e torniamo. Tutti convocati, tra poco nuove notizie. Pigia il coso rosso. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia, gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche. Anche la nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Tutti convocati. Bisogna cambiare quello che pensano alcune menti deboli che tanto io vesto questi colori, ho questo nome, siamo la Roma e vedrai che le cose vanno nella direzione giusta, perché siamo, e non ci si mette niente di nostro. Si aspetta che le cose accadano per quello che sei, senza andare a far uso poi di quello che un elemento che ha qualità e uno che è forte può metterci sopra, e questo ci manca. Lo so, è un po' difficile parlare con voi altri. purtroppo la nostra storia dice questo, che non riusciamo a mantenere un livello di sforzo, di ricerca proprio. Alterniamo, abbiamo degli alti e bassi e questo va sicuramente poi levato durante la settimana, perché l'allenatore, se c'è questo andamento alto e basso, è il primo ad essere colpevole. Non gli fa abituare l'allenatore a questo andamento regolare. Per te che non mi stimi e non ti tocca quel che dico, non ho da dirti molte cose in più di quel che ho detto. Allora, primo aggiornamento delle nostre domande, carissimo Pierre, è un plebiscito per De Boer, perché era lì l'idea di Giovanni, sì. Giovanni, ma parlare sulle cose della vita di Venditti è quasi sacrilego, eh? Allora ci tacciamo. Vai, altri 10 secondi, senti che bella. Ma per te che hai scelto sempre me da santo ad assassino, vorrei che mi credessi e mi tenessi più vicino. Le cose della vita fanno piangere i poeti, ma se non le fermi subito diventano segreti. Possiamo? Possiamo, sì, no, possiamo. Ma anche prima, no, però veramente non so chi l'abbia pescata. Ha pescata Giorgio De Luca insieme a Gianmarco Ferronato. È il Venditti più Venditti, sì, che c'è questo per, sì, me. C'è chi però, ci suggeriva via SMS adesso, forse, una canzone di Mia Martini, Piccolo Uomo, scritta da Bruno Lauzi, ad esempio. Poteva anche essere questa una colonna sonora per oggi. Ti dicevo, primo piccolo bilancio del nostro lunedì delle domande, c'è un plebiscito per De Boer perché i tifosi dell'Inter dicono ci voleva finalmente qualcuno con le palle, così Allegri. C'è anche chi scrive: io uno come Allegri lo cambierei solo con Guardiola o Ancelotti. È la conferma che i tifosi della Juve siamo in troppi. Però come si chiama? Pierluigi da Roma o da Milano? No, si chiama, non lo so, adesso non riesco. No, non si è firmato. C'è anche chi ricorda che gli hanno dato in mano una Ferrari col motore di una Fiat, che è il centrocampo. Però manca Marchisio. Tiziano scrive, giusto, 800 24 00 24. Alberto dalla provincia di Ferrara. Buon pomeriggio. Io non sono d'accordo con la maggior parte dei tifosi, sì, perché secondo me la decisione di De Boer parte da un suo errore iniziale. Cioè, voglio dire, se tu conosci i giocatori, sai quali sono i loro limiti, perché l'hai messo in campo? Perché la mette da subito il mio QB. E poi, non so, anche parlando di Condobbia, io penso che il progetto Condobbia sia fallito. Se prendete 2 milioni di euro più bonus per un giocatore che ha delle caratteristiche che ovviamente vanno bene nel campionato francese, ma non nel nostro, non lo so. Io è un anno che lo aspetto, come ho aspettato Kovacic, però sono quei giocatori che evidentemente non riescono a esplodere nel nostro campionato. Vi ascolto io credo che non sia facile tenere fuori Kondogbia per far giocare Gnukuri all'inizio. Tra l'altro hai appena scoperto che hai perso João Mario. Pier, a proposito, aggiornamento sull'infortunio di João Mario: oggi gli esami, elongazione gemello laterale prossimale della gamba sinistra, verrà valutato giorno per giorno, ma credo si possa dire che può essere in dubbio per la partita di domenica sera all'Olimpico contro la Roma. Pier. Sì, ma io credo che qui la vera notizia è De Boer, o De Boer se preferite, poi prima o poi per novembre prendiamo la decisione definitiva, nel senso che lui, Brozovic l'ha fatto fuori, al momento è fuori completamente dai giochi. Kondogbia gli ha dato questa lezione ieri, cioè, mi sembra da questo punto di vista, come dire, duro ma fair, duro ma corretto, duro ma dritto, rigoroso nelle sue scelte, che poi possono essere giuste o sbagliate, ovviamente. Questa è la notizia, secondo me. Questa è la notizia, perché tanto c'è anche la parabola di Ranocchia, uno che ne ha combinate di tutti i colori anche questo inizio di stagione, e però sta lavorando, e ieri, appena c'è stata l'occasione, De Boer l'ha ributtato in campo. Ma perché io credo che poi gli allenatori bravi siano quelli che prendono queste decisioni qui, eh? Poi magari qualche volta ci vuole, ognuno ha il suo carattere, ovviamente, ognuno ha il suo carattere, ha il suo modello di leadership, e quindi ci sono anche delle situazioni nelle quali, di fronte soprattutto a determinati giocatori di particolare carisma, si può concedere qualcosa di diverso. Però mi sembra che De Boer stia insegnando un metodo all'ambiente, e forse anche a noi dei giornali, della carta stampata, delle televisioni, alla mentalità del calcio italiano. questo è. Poi è ancora molto presto per valutare. A me sembra però che si stia rendendo protagonista di scelte forti, un po' come Luis Enrique, per esempio, quando è venuto alla Roma. Non andò benissimo, però in tanti ricordano Luis Enrique, magari col senno di poi, con un pochino più di calma, come un allenatore che qualcosa di interessante aveva dopo. Portato, no? Al di là di quello che ha vinto dopo, che ovviamente è dovuto a lui, ma anche alla qualità dei giocatori che chiaramente non aveva invece alla Roma. Però ecco, mi sembra questo il tema, al di là del caso con Dogbia. Dal punto di vista tecnico, con Dogbia ormai lo conosciamo, è un giocatore che sicuramente ha fatto fatica a inserirsi, si porta dietro il fardello di essere stato pagato molto. Molto, e quindi l'asticella delle aspettative è alta, sempre molto alta, no? E fin qui bisogna anche dire la verità, non l'ha raggiunta. Giuseppe da Reggio Emilia, Giuseppe. Sì, buongiorno. Eccoci. Dunque, io, c'è anche chi scrive che la tattica di De Boer è punirne uno per educarne 100. Giuseppe, prego. Sì, io sono un interista malato, però lascerei stare un attimo la questione Inter in questo momento, perché vorrei così, spero proprio che Spalletti faccia un gesto suo, tipico, cioè dia le dimissioni immediate in questo momento. Per poi vedere tutto il corteo dei dirigenti della Roma andare lì in ginocchio a chiedergli di riprendergliele. Perché io ho vissuto tutto il campionato, ormai sono anni che seguo il calcio, è venuto, ha preso le macerie della Roma, che sembrava una roba assurda, le ha portate in Champions League, e adesso, voglio dire, ancora una volta questa storia di Totti deve giocare, non deve giocare, cioè, è una roba veramente, io fossi in lui darei le dimissioni. Sì, sarebbe curioso vedere quale sarebbe la reazione, anche perché noi abbiamo sempre detto, poi adesso c'è il traffico, però abbiamo sempre detto che dietro alle scelte di Spalletti l'anno scorso, Pier, c'era evidentemente una volontà e una valutazione della società, cioè non è che Spalletti decideva di testa sua. C'è il traffico, aspetta, torniamo subito. Tutti convocati. I love this game. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. Tutti convocati. Ho detto che quando ci sono partite di questo tipo, quando ci sono episodi di questo tipo, è chiaro, in sala stampa, le prime domande vengono fatte su questo argomento. Mi interesserebbe non parlarne assolutamente. Quindi non si aspettava la risposta di De Laurentiis in quei termini? No, perché probabilmente il presidente è arrivata una voce che io pretendevo che parlasse qualcuno della società. Era arrivata a tanti, questa voce. Questo era Sarri, io ero lì sabato davanti. Sera. Sì, era io ero lì tanti. Davanti, sì. Proprio mentre parlava nel post partita di Genova-Napoli. Quindi, di che stiamo parlando? Sarri abbiamo mille colpe, ma questa volta Sarri noi giornalisti. Il suo lavoro, che è quello di gettare benzina, gettare acqua. Per benzina, meglio di no. Gettare acqua, no? Chiaramente perché è così, perché è ovvio che deve riuscire a ricompattare tutto. Poi lui ha provato ad aprire un file e questo file è stato immediatamente chiuso da De Laurentiis, quindi non ha alternative. E poi ha vinto. Anche l'umore incide sulle dichiarazioni di post partita, però certo. Qui a pensare che insomma, non è che abbiamo l'anello al naso, che abbiamo sentito tutti. Sì, no, abbiamo tutti sentito male, tutti bene, e poi abbiamo letto, credo, tutti bene anche tra le righe la risposta di De Laurentiis. Daniele da Fonte Olandese ci ricorda che si dice Frank de Boer con la U di burro, ma l'avevamo già affrontato il tema quest'estate, quindi si dice Frank de Boer. Era Filippo quello del messaggio che scambierebbe Allegri solo con Guardiola e Ancelotti, ma fra 5 anni. Luca da Lodi, Luca. Sì, buongiorno, complimenti. Eccoci. Per la trasmissione. Grazie. Buongiorno. Pardo, sei un grande. Esagerato. È grosso più che altro. Guarda, ti invito al maneggio, andiamo a fare una passeggiata a cavallo, sei capace? Però il cavallo secondo me muore dopo, perché io peso più di 100. Il cavallo, no, volevo dire, quanti siete? Volevo dire, io sono d'accordo con l'ascoltatore che ha mandato il messaggio, cambierei solo con Ancelotti e Guardiola. E poi volevo dire una cosa, la Juventus è andata davanti alla porta 5 volte, il migliore in campo è stato quello del Palermo, il portiere del Palermo. Sì, ma ci manca, Luca. Sento dire che la Juventus non ha giocato bene, non ha... non so, a me non sembra così esagerato. Ma io credo che si possa dire però che a Palermo ha giocato male. Si può dire che a Palermo ha giocato male, e poi si può andare avanti senza costruirci sopra. È andata molto più vicina alla Juve. La Juve è andata molto più vicina a fare il 2-0 piuttosto che a subire l'1-1. Stiamo parlando dello scontro tra la Juventus, che è la Juventus, e una squadra che in questo momento sta facendo dei buoni risultati. Di una trasferta a tre giorni da un'altra trasferta importante in Champions League, dove la Juve ha vinto la partita senza rischiare. Sì, per carità, il Napoli a Palermo nel secondo tempo ha passeggiato. Forse il termine di paragone può essere questo. Sì, ma non è il premio della critica che decide. Sono tre punti che valgono esattamente come quelli che ha preso il Napoli a Palermo. Io non sto dicendo che mi sia piaciuta, non è che mi sia piaciuta la Juve a Palermo. Sarei pazzo a dirti che mi è piaciuta, non è piaciuta neanche ad Allegri. Però secondo me i campanelli d'allarme sono altri, cioè le situazioni che possono far preoccupare, le vittorie sofferte, le vittorie fortunate sono altre. La Juve ha vinto a Palermo facendo una partita normale, non brillantissima, il portiere ha salvato 2-3 volte in maniera clamorosa, altrimenti al 60esimo era 2-0 ed era finito lì, e magari a quel punto avrebbe anche dilagato. Però insomma, palle gol clamorose il Palermo non mi pare che ne abbia avute, quindi poi alla fine mi verrebbe di un po', ma di che stiamo a parlare? Poi adesso ovviamente, siccome c'era stata la partita col Siviglia, così, anche se non mi era dispiaciuto col Siviglia, prima c'era la stata la partita di San Siro, la più brutta degli ultimi 30 anni, ecco, prima di Palermo-Juve, allora è chiaro che manteniamo un piccolo retropensiero sul fatto che sia una Juve meno brillante rispetto al passato. Secondo me il problema oggettivo è che in mezzo al campo adesso ha un po' di difficoltà, poi con Asamoah fuori, con Marchisio fuori, lì sicuramente doveva fare di più, è l'unico piccolo neo di una campagna acquisti, invece secondo me è molto importante. Però, ripeto, non c'è niente della partita dell'altro giorno che mi abbia portato a dire oddio, ma che sta succedendo? Non sta succedendo niente, sta succedendo che la Juve sarà un po' meno brillante di altre volte. Massimiliano da Firenze, Massimiliano. Sì, ciao, buonasera e complimenti per la trasmissione. Ora, mi avete un po' bruciato un po' la domanda o l'argomento, insomma, perché era proprio quello che volevo dire. Io non ho visto la partita, però il lunedì vedevo i giornali e ho detto addio, che cosa è successo alla partita della Juventus, sto parlando con il Palermo. Poi guardo il tabellino e vedo insomma 15 tiri totali, 7 in porta, 9 angoli per la Juventus e il portiere del Palermo uno tra i migliori. E allora forse, non lo so, direi che se si parla della partita contro l'Inter, lì veramente la Juventus si è giocato malissimo. Sì, però perdonami Massimiliano, il calcio non è solo numeri, io li amo i numeri, però ha fatto specie vedere gli ultimi 15 minuti del Palermo riversato nella metà campo della Juventus, sì, e concretamente con delle situazioni di pericolo. Poi magari non si misurano nel tiro in porta, Buffon... insomma, però c'è stata la sensazione, questa c'è stata, ma Allegri per primo l'ha detto, insomma, che il livello della prestazione è stato inferiore, diciamo, a quello cui si è abituata la Juve. Tutto è stabilire il grado, no? Quindi vuol dire, se uno c'ha 40 di febbre, se c'ha 37,1, ecco. Allora, da 1 a 10 sicuramente l'asticella del pericolo a Palermo sarà arrivata a un livello 3, 4. Però insomma non è 8 o 9, non so come dirti, sicuramente c'è stato un calo fisico nel finale, secondo me, che può essere un campanello d'allarme. Sicuramente due o tre situazioni insidiose nell'area della Juve ci sono state. Sicuramente siamo abituati a un calcio dove oggi le grandi squadre quasi sempre passeggiano con le piccole, questo pure va detto, perché e quindi stupisce se una partita finisce 1-0. Appunto, negli anni 80 ci stiamo 90, un po' spagnolizzando. Ecco, negli anni 80 comunque andare a vincere fuori casa no, era comunque una grande prestazione, perché era pieno di pareggi, c'erano dei campacci dove era difficile passare, Ascoli, Catanzaro, Cesena, erano campi, Avellino, erano dei campi di squadre medio-piccole, ma dove era molto complicato riuscire comunque a portare a casa i due punti, perché allora all'epoca adesso ci siamo abituati alle goleade, e quindi l'1-0 sembra necessariamente una vittoria risicata. Aspetta che c'è Carlo da Pescara, vediamo di farlo prima del GR. Carlo? Sì, dai. Buonasera. Velocissimo, intanto credo che la vostra sigla questa sera sia proprio Le cose della vita e non Piccolo uomo, perché non credo che Spalletti sia un piccolo uomo. Io sono juventino matto e credo per i romanisti che sono contento se continueranno a far giocare Totti, perché non vinceranno mai. Volevo dire di Sarri che la deve smettere di lamentarsi alla napoletana, lui non c'entra nulla con questo piagnisteo, la finisca e poi ritornare indietro. E l'ultimo commento, se me lo permettete, lapidario. Io sono juventino. A me non è mai piaciuto l'allenatore da quando l'abbiamo preso. Però si può anche cambiare idea, Carlo. Si può anche cambiare idea dopo un paio di scudetti, una finale di Champions. Un po' l'ho cambiata idea, però credo che questa, con questa Juve avrebbe vinto tranquillamente anche uno come Spalletti. Ma non lo so, Carlo, non lo so. Due scudetti, due Coppa Italia, una finale di Champions con un'eliminazione. Abbiamo il GR, Pierre, abbiamo il GR. Domani ci troviamo a Bologna al Cersaie, Pierre, lo sai? Assolutamente. Al Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e l'Arredomagno. Quindi domani siamo lì dopo le 14. Quindi io ti saluto. Adesso invece noi torniamo dopo le 15 con la MotoGP e poi la domenica degli arbitri, perché vi facciamo risentire preziosi da urlo. Tutti convocati. Vado a giocare, ci vediamo dopo. Tutti convocati. Mi devo gestire, ma comunque qui a Aragon al calendario era un punto in rosso di qua ci vuole attaccare un po'. È così, no? In campionato se il secondo va prendendo punti, in questo caso Valentino andava prendendo un po', ci vuole fermare e dai, penso che è stato importante prima di andare alla ruta asiatica. Può valere ambire anche alla seconda posizione, posto che matematicamente puoi anche vincere il mondiale, cioè non è che voglio assolutamente... Sì, può valere molto anche perché è l'unica cosa che possiamo fare, quindi, quindi la facciamo valere molto. Piacerebbe lottare per la vittoria in tutte e tre le gare, amo la tripla, sono tre piste che mi piacciono moltissimo, tre piste dove la nostra moto di solito va forte. Anche se siamo un po' preoccupati e dobbiamo lavorare, perché comunque noi con la Yamaha non vinciamo più da Barcellona, dobbiamo capire come fare per andare un po' più forte. Questi erano Marquez e Valentino Rossi, gli ex duellanti. 800 24 00 24, se volete parlare di motociclismo, siamo qui con Roberto Ungaro in questo spazio che ci ricaviamo in mezzo al diluvio di calcio. Dico già che parleremo anche del Milan, parleremo di Orsato, vi faremo sentire preziosi, ci state scrivendo in tanti, 349-238-6666. Roberto, con ieri direi che il mondiale l'abbiamo mandato agli archivi. Siamo appesi alla matematica, quello ci tiene una speranza, ci sono ancora 100 punti, 4 gare, però 52 le lunghezze che Valentino ha di stacco da Marquez fanno pensare che purtroppo c'è di buono che lui ce la metterà come ce l'ha messa ieri, tentando quel sorpasso alla morte, tra virgolette, e però ci ha provato. Questo ci fa ben sperare, almeno per lo spettacolo. Incredibile Marquez, cosa ha fatto? È resuscitato. L'ex ragioniere. Sì. Allora, quello che abbiamo visto ieri è il vero Marquez, perché quando lui è quasi caduto, si è tenuto su col gomito e poi ha recuperato quelle quattro posizioni infuriato, ma come guidava, curvava molto più stretto degli altri, velocissimo a rialzare la moto, faceva 10 metri meno degli altri. Ecco, con una onda così e un Marquez del genere, io penso che sia veramente difficile, deve accadere qualche cosa. E la riflessione che mi viene in mente, noi abbiamo visto quest'anno un Marquez molto ragioniere. Il vero Marquez è questo: a un pilota, quando chiede di non essere se stesso, è lo sforzo più grande che deve fare, quindi quanto è cresciuto e quanto è maturato. Ma ieri secondo te ha messo nel mirino questa gara, come ha detto, perché punto dopo punto Valentino si stava avvicinando, sempre lontanissimo, però stava rosicchiando, era troppe volte che gli finiva davanti, ha dovuto mettere i puntini sulla I e è stato rischioso farlo, ma ha preferito farlo, è venuto fuori appunto il vero Marquez. E l'altra cosa che mi viene da dire è incognita gomme Michelin, perché un Pedrosa che la gara prima è stato strepitoso ha finito addirittura con dei pezzi mancanti, ha deciappato, come si dice tecnicamente, cioè sono venuti via dei tasselli di gomma. Questo non può accadere, non deve accadere, noi e tutto il sistema non può stare in ballo su questa, diciamo, qualità che non è costante. Lo stesso Dovizioso ha avuto grossi problemi anteriori, gli vibrava, si è spostata la gomma sul cerchio. Rimane un grande punto di domanda che ci ha regalato spettacolo, però ci fa anche riflettere. Scrive un amico, 349-238-6666, se Marquez rischia, se Amoteggi fa pochi punti e Valentino dovesse vincere. È questione di aritmetici, sì, ma 52 sono tanti. 100 a disposizione è vero, ma Marquez, abbiamo visto, ha imparato a contenersi. È stata una vittoria simbolica quella di ieri, però secondo me non cambia rispetto a quello che è stato quest'anno. L'unico jolly che ha da giocare Valentino, l'unico jolly nel mazzo, è quello di destabilizzarlo a livello mentalmente, cioè di infastidirlo, di provocarlo sotto il punto di vista strategico, e allora quello è l'unico modo per portarlo in scacco, per farlo indurre all'errore, perché altrimenti con una Honda, ripeto, risorta così perché non è la moto che c'era inizio stagione. Vi ricorderete, siamo partiti con la Yamaha davanti, la Honda ha recuperato e adesso mi viene da dire che addirittura è superiore. Andrea da Rovigo, Andrea. Buongiorno a tutti. Eccoci. Guardi, secondo me più che dare solamente la colpa all'Honda o alla Yamaha, secondo me il mondiale Valentino se ne è mangiato una buona fetta quest'anno ad Assen, facendo tra virgolette lo stesso errore che ha fatto l'anno scorso a Misano. E finché si mangia i 25 punti in questo modo non può pensare di vincere il mondiale. Marquez è stato molto bravo a gestire, ma è sicuramente maturato e dimostra di essere un grande campione. Quello che mi delude di più è vedere un Valentino così, che si mangia i 25 punti in quel modo lì. Ha fatto 3-0, sì, credo, in questa stagione, di cui un paio gratis. Per sua ammissione di colpa proprio. Il fatto che hanno coinciso Valentino che sbaglia, come mai in passato, perché non ha mai regalato punti così, e contemporaneamente Marquez che diventa ragioniere, senza perdere la sua efficacia, la sua velocità. Questi due fattori insieme, concomitanti, ci rimandano e ci regalano questo campionato. Siamo a questo livello. Tra Rossi e Lorenzo scintille. Ieri Rossi l'abbiamo sentito nella copertina iniziale, con tutte le emozioni del fine settimana. Rossi che dice: ma io ho rischiato, anche non sarebbe stato bello mandare giù Lorenzo, anche se avrebbe avuto il suo fascino, perché risatina. Dopo le scintille che ci sono state nelle dichiarazioni post Misano, lui già pensava: caspita, come si sarebbe alimentata questa querelle. Allora, Lorenzo è resuscitato, e Lorenzo, pur di arrivare davanti a Valentino, a mio avviso si sarebbe steso, avrebbe preferito cadere ma non arrivare dietro al suo più acerrimo rivale in questo momento. Dovete sapere che Lorenzo e Marquez, immaginatevi in Spagna cosa si dividono, perché sono le due icone. Pedrosa purtroppo è un outsider. Bene, preferire il tuo rivale di paese, il tuo compaesaneo, al tuo teammate, al tuo compagno di squadra, la dice lunga. Cioè, fra loro non c'è assolutamente uno spiraglio di dialogo. E secondo me, se fino adesso Yamaha è stata molto professionale, un po' di voci si sentono che nel paddock, che è l'ultima, la terna e poi la chiusura a Valencia, forse qualche cosa. Non voglio dire che Lorenzo non avrà una moto competitiva, però se c'è da dare una mano a Valentino, esatto, giochi di squadra non esistono, ma se c'è da far qualcosa in qualsiasi modo Yamaha lo farà. Da qui questa è una linea spartiacque, da adesso cambierà atteggiamento. Mi dici qualcosa invece sulla domenica nera della Ducati? Purtroppo, invitato di pietra, o forse sì, si sta già preparando al prossimo anno, scrive un amico. No, purtroppo tutto dipende ed è di peso dalla gomma. A parte Iannone, che non ha disputato la gara, però Dovizioso, pronti via, ha avuto dei problemi, e li ha avuti al posteriore, li sentiva lui al posteriore, e lui è un palato fine, è molto sensibile, quindi se qualcosa non va lui se ne accorge subito e non riesce a esprimersi, come tutti i piloti, ma lui di più perché è un ingegnere mancato in questo. Ma la gomma davanti ha deciappato, dicevamo prima, si sono staccati dei tasselli, questo non può accadere. Quando succede questo la moto inizia a vibrare, tu non riesci più a guidare, non mantieni la tua linea, addirittura si è spostata sul cerchio, proprio traslato si è spostata. Ecco, questo non può accadere. Michelin ha dichiarato che è una gomma che non rientra nello standard qualitativo delle altre, però qui bisogna dare delle risposte, perché questo sport passa tutto attraverso un'impronta a terra che è grossa come una carta di credito. Non voglio fare promozione occulta, però la potenza è nulla senza controllo, cioè tutto passa da lì, quindi alla fine l'elettronica, l'abilità, le prestazioni, i cavalli, però quello è troppo importante, e allora un po' di costanza in più nel rendimento dovrebbe esserci. Michelin deve garantire solo questo, ha fatto grandi passi in avanti, ha risolto i problemi di sicurezza, perché ricordiamo che addirittura esplodevano le gomme, un paio di casi è successo nella prestagione, nei test invernali. Un po' di costanza nel rendimento e nelle gomme, soprattutto perché mi dicono che sono una diversa dall'altra. Questo è il problema, gli stessi tecnici, gli ingegneri, che non sai mai che cosa può uscire. Interno all'otto, e questo non è ammissibile. Sì, io non so se condividi, e poi ti saluto l'amico che scrive: la Ducati a Dovizioso, che è un buon pilota, però in 8 anni di MotoGP, pur avendo moto ufficiale, non ha mai vinto una gara. Vero, nell'ambiente si dice che se tu sei stato un pilota ufficiale HRC, cioè Honda, e non hai vinto, hai perso il treno che poteva portarti dove volevi arrivare. Speriamo che non sia così, perché Dovizioso se lo merita, è una grandissima persona e sarebbe la ciliegina su una sua torta già ottima, perché un mondiale 2.5 l'ha portato a casa. Gli manca solamente quello più grosso di mondiale. E speriamo, però l'anno prossimo Ducati avrà un pilota di tutto rispetto, perché Lorenzo il potenziale ce l'ha. E abituarsi subito alla Ducati non sarà facile, perché è un altro mondo, ma abbiamo visto quanto è competitiva e quanto è cresciuta. Lorenzo stesso continua a guardare quello che fa Ducati, ormai con la testa è solo lì, non gli interessa più tanto, sì, arrivare secondo in campionato davanti a Valentino più che secondo, perché un Lorenzo arrivare secondo vuol dire essere il primo degli sconfitti, ma davanti a Valentino quello sì. Però è già con la testa c'è nella rossa. C'è il conto da chiudere che ci rimanda l'anno scorso e tutto il resto. Ci si ritrova il 16 ottobre in Giappone, quindi adesso c'è un po' di stacco, un po' di vacanza, poi da lì la volata fino alla chiusura del mondiale. Come sempre a Valencia. Oggi erano a fare i test, quelli degli HRC, quindi a migliorare ancora, a cercare di migliorare. Speriamo che il livello si pareggi con Yamaha, perché almeno conterà solo la manetta, come piace a noi. Grazie Roberto. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Alla prossima. 800 24 00 24. Massimo dalla provincia di Varese. Massimo. Salve a tutti. Eccoci. Naturalmente vi ringrazio per l'ottima trasmissione che fate ogni volta e mi tenete compagnia. Io volevo accennare a tutti i piangina juventini come me che lamentarsi di Allegri mi sembra proprio è una cosa di troppo. Facciamo la fine dei napoletani quando parlano di Sarri. Sarebbe meglio evitare, perché Allegri ci sta portando un sacco di vittorie e gioiamo di questo momento. Per quanto riguarda Valentino Rossi, purtroppo quest'anno ha sbagliato lui. Una volta era in testa, è caduto quando pioveva, e due volte ha sbagliato completamente il cambio moto mentre il muretto gli diceva di entrare. Ringrazio ancora tutti. Sì, però su Valentino Rossi, insomma, io credo l'abbia spiegato bene prima Roberto Ungaro. Marquez ha anche molto gestito questa stagione e poi ieri ha deciso di far vedere che si poteva anche vincere, si poteva anche chiudere formalmente il discorso del mondiale, ma forse ha fatto il ragioniere per scelta strategica e non l'abbiamo visto con la manetta del gas aperta, come si dice per tutta la stagione. Mario da Pescara. Mario. Salve, buongiorno. Grazie. Ero curioso di sentire le dichiarazioni di Preziosi, perché come le sa non ha voluto parlare con i giornalisti di Pescara, quindi noi non sappiamo che cosa ha detto, ma ho sentito dire non che... Non sapete cosa ha detto Preziosi? Sì. Allora, aspetta lì. Allora, ti faccio sentire Preziosi, ti faccio sentire anche Montella e Paolo Sosa, perché c'è stato anche il derby tra Montella e Paolo Sosa. Io credo che gli episodi ci saranno sempre, se ti vuoi analizzarlo sicuramente. A me non mi piace dopo una partita anche esporre giustamente questi episodi. Quello che dico solo, perché anche nella settimana scorsa si è passato e si è parlato tantissimo, cioè che la rilevanza della differenza delle squadre si nota, e questo è capibile. Io sono già stato in Italia, capisco benissimo, capisco la importanza di certe determinate squadre e la rilevanza che danno a certe determinate squadre. Sembra che abbia imparato benissimo la cultura del sospetto, partendo anche da ciò che ha detto ieri. Sarebbe più opportuno parlare di calcio e, come ci hanno detto almeno noi italiani a Coverciano, cercare di parlare meno possibile degli arbitri, perché gli occhi ce l'hanno tutto, ognuno c'ha la sua interpretazione e quello non si può cambiare. Diciamo che si può sbagliare, ci sono episodi più plateali di altri, ma a me non mi va assolutamente di entrare in questa polemica, perché non ho la cultura del sospetto. C'è un rigore e un gol al primo minuto, portato via con la mano, lui piazzato, non ha visto, nessuno vede, ma cosa vengono a fare in 5 in 6? No, forse non ve ne siete accorti, ma guardate, il primo gol, la prima azione è una palla che ormai è andata dentro, che lui porta via con la mano. Cioè, un rigore e un'espulsione. Ha chiesto spiegazioni? Beh sì, ma non me ne dà spiegazioni, ovviamente. Sta zitto, sta. Vorrei che mi desse spiegazioni. Qui c'è un atteggiamento, è stato sbagliato tutto. perché abbiamo avuto ammonizioni, non è tanto adesso ti lamenti quando ha avuto il rigore a fondo, non è questione dell'episodio, lì c'è la partita a secondo minuto, era già finita, veramente punitivo nei nostri confronti, assurdo. Se vuoi pescare lo voglio tenere in Serie A, bisogna che le faccia i punti sul campo, una volta con Sassuolo, una volta con Torino rimane in 11, con noi ci fa rimanere in 9, forse boh, non lo so, forse il Radio ha bisogno di riposare, ma tanto però. Questa era la chiusura meravigliosa sui poteri forti che vogliono aiutare il Pescara. Mario, prego, te l'ho fatto sentire. Grazie, grazie, sempre divertente. Pescara, i poteri forti, sì. Questa cosa del Sassuolo che ce la stanno menando da due settimane, hanno dimenticato di mandare una PEC, adesso vogliamo vedere cosa finire, pensiamo, non lo so. Questi vediamo, poteri c'è forti, un ricorso, aspettiamo. Aspettiamo. Sì, ce l'avevano, vabbè, lo facevano fuori. Ma Mario, il ricorso c'è, aspettiamo, vediamo. Però prego, dai. Facevano venire subito. Va bene, comunque Pescara poteri forti, grazie. Ah, non sei d'accordo, sì, no? Come no, sì, a Pescara siamo tutti contenti perché adesso sappiamo che abbiamo Santi in paradiso, non lo sapevamo, vabbè, ci fa piacere. Comunque lo Juventino di Pescara di prima, io sono tifoso dell'Inter, tra parentesi, fatto benissimo De Ber mettere subito fuori con Dobbia e a cambiare registro, ma lo Juventino di Pescara non ha detto una parola, noi a Pescara ci sono più juventini che tifosi della città, una vergogna. Grazie. Insomma, ognuno sarà pure libero di tifare per chi vuole. Tiziano Pieri, ciao. Buon pomeriggio. Io non so che opinione hai tu sulla cultura del sospetto che ieri abbiamo visto praticata da Paolo Sosa, da Montella, da Preziosi. Ma guarda, potrei scrivere un libro sulla cultura del sospetto, o meglio, però fammi spezzare una lancia, perché secondo me Paolo Sosa è stato frainteso, nel senso, e mi spiego meglio, Paolo Sosa ha parlato di rilevanza televisiva. Ci ha detto che gli episodi vengono valutati dai mass media in generale in maniera differente. E qui non ha parlato di cultura del sospetto o comunque che c'è da parte degli arbitri, non ha neanche menzionata la moviola, non ha voluto neanche entrare nel merito degli episodi arbitrali. Perdonami Tiziano, Paolo Sosa sabato ha detto che il Milan è una grande società e infatti riposa sempre un giorno in più, domenica si è presentato dicendo che veniva dato più peso al presunto errore contro il Milan, presunto perché poi non era rigore. Comunque c'è un episodio dove il miglior arbitro italiano, Daniele Orsato, ha sbagliato non solo in quell'occasione, ha sbagliato anche se ha concesso un rigore alla Fiorentina, ce n'era un altro su Kalinic, molto netto, un abbraccio, una cintura al collo, quindi diciamo che ieri non è stato il miglior Orsato, ma può succedere, non tutti sono infallibili, soprattutto gli arbitri che decidono infrazioni di secondo, forse ha spento la luce 10 secondi prima di quell'episodio a fine gara che era giustamente un calcio e punizione per il Milan con l'espulsione del difensore della Fiorentina e quindi si sarebbe dovuto tirare il calcio di punizione, magari il Milan avrebbe potuto anche segnare, ma qui si entra in un'altra partita dei sei dei ma. Io ecco, quello che volevo sottolineare è che Paolo Sosa ha parlato di rilevanza televisiva, quindi in quella intervista post gara, poi del sabato non discutevo. Quindi secondo te è vero che c'è un peso, viene dato un peso diverso quando poi si va a fare la moviola in TV? Tu sei una persona che ha praticato anche la televisione e la moviola in TV. Però lui non ha parlato di moviola, ha detto che vengono rilevati con maggiore insistenza. Di quello stava parlando, gli fanno vedere un episodio e lui di quello parla. Sì, però lui è stato preciso e ha detto, si parla più spesso degli episodi a favore di Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, poi è da capire se la Fiorentina è ritenuta una grande squadra, ovviamente perché anche la Fiorentina in questo caso viene più volte rilevato l'errore ai propri danni e a favore della piccola squadra, tra virgolette, senza nulla togliere, oggi utilizzo il Crotone perché è una neopromossa ed è ultima in classifica, per questo esempio, quindi una piccola, magari un episodio a sfavore del Crotone non viene rilevato dal programma, o comunque non viene insistito in maniera reiterata, non viene dato spazio ai dirigenti del Crotone per lamentarsi. Questo era un cappello che volevo fare. E su questo poi a livello televisivo gli spazi televisivi per le grandi squadre sono molti più ampi, si aprono parentesi molto lunghe sulle grandi squadre e sulle piccole no. Questo non c'entra niente con gli arbitri. No, gli questo però io aggiungo, assolutamente non c'entra niente con gli arbitri, è però assolutamente fisiologico, perché chi fa TV, chi scrive giornali, chi fa radio poi si deve rivolgere al grande pubblico fondamentalmente. Certamente. Sì, ma io non discuto di no, questo. Perché, però. Perché sennò domani riceviamo le telefonate di chi si lamenta per il poco spazio per l'Udinese, il Sassuolo e via discorrendo. Insomma, evidenziati dalle moviole, se vediamo sui giornali le moviole di oggi sono di tutte le partite di Serie A, quindi questo volevo solo fare, la mia premessa era dovuta a una precisazione che secondo me è stata fraintesa da parte di Paolo Sosa, anche perché magari non è padrone della lingua e quindi non perché sia amico di Paolo Sosa, perché non l'ho mai arbitrato e neanche lo conosco. Ecco, volevo solo fare questa precisazione, ecco, tutto lì, perché non si riferiva agli episodi, o almeno io ho capito questo, poi magari posso aver sbagliato nell'interpretare il pensiero di Paolo Sosa. È Preziosi, il pensiero di Preziosi ha ragione quando si arrabbia per il mani di Zampano, anche se poi in tanti hanno rilevato che prima la palla tocca la coscia, quindi teoricamente potrebbe esserci un attenuante. Certamente dal punto di vista arbitrale non c'è l'attenuante, perché l'episodio è netto, la mano si muove dopo il tocco della coscia ed evita un gol chiaro e inequivocabile. Conosciamo Preziosi, sanguigno, di temperamento, investe parecchi milioni di euro in una squadra. Questo non gli dà diritto però di essere, a mio modo di vedere, unica pecca, che gli riconosco un po' incoerente rispetto al mercoledì nel post Napoli Genoa-Napoli, che diciamo non disse nulla Sarri, però ecco. Sì, era stato zitto dopo Genoa-Napoli, dove era stato obiettivamente, insomma, non trattato male da D'Amato, e poi si lamenta dopo la partita con il Pescara. Anche questa è un'incongruenza che qualcuno ha rilevato. Grazie Tiziano. Grazie a voi. Grazie a Tiziano Pieri, Gianfranco dalla provincia di Udine. Saluti. Eccoci. Saluti. Niente, volevo dire una cosa, il Milan è una squadra ormai di mezza classifica, perché un fallo così si doveva vedere, ci sono 5 arbitri. Sì. Di conseguenza, se fosse stata il Napoli, la Roma, sarebbe stato fischiato. Tu dici che c'è stata una scelta di Orsato, c'è stata la scelta di Orsato di non dare calcio di punizione al Milan con espulsione di Tomovic. Beh, anche questa può essere una teoria. Secondo me no, secondo me semplicemente ha sbagliato, e tra l'altro è strano perché ha sbagliato uno dei migliori, come ricordava prima Tiziano Pieri. Orsato è forse in questo momento il miglior arbitro italiano, però ieri ha sbagliato in almeno un paio di occasioni. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Alvise Falzoni in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Domani, come detto, ci ritroviamo da Bologna, dal Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredomagno. Domani, se volete, ci venite a trovare lì e parleremo molto ancora di calcio, della Champions, ma non solo. I prossimi giorni parliamo anche di basket, ce lo state chiedendo. Milano ha vinto la Supercoppa. A domani. Ci vediamo ragazzi, enjoy.